voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, soluzioni e idee anticrisi. Ci sono appunto idee che si adattano a mercati emergenti per necessità. Ci sono idee che possono risolvere problemi anche nelle difficoltà economiche. Ci sono imprese, piccole e medie, che hanno creato un mercato nell'outsourcing, grazie anche al fatto che molte imprese non possono più sostenere i costi di servizi al loro interno. Di necessità, virtù, e questo è un principio anticrisi. IFM Infomaster opera da oltre 20 anni nel mercato italiano delle tecnologie di contact center. L'azienda genovese offre soluzioni integrate per telecomunicazioni, contact management e tecnologie multisensoriali nel campo dell'information communication technology. Oltre 600 clienti attivi, fatturato circa 8 milioni di euro. Idea anticrisi è hashtag Phones, una soluzione capace di unificare la gestione dei media in un solo contact center, omnicanale e multisociale. Un call center chiave in mano, ma gentile e rispettoso, come spiega Andrea Barbano, fondatore e direttore commerciale. Era nel 1994, appunto, Infomaster nasce e comincia a sviluppare i prodotti di contact center, diventando per un periodo di tempo leader indiscusso del mercato italiano come azienda italiana, con un numero di installazioni superiore ormai alle 20.000 postazioni, e resisi conto che gli imprenditori avevano difficoltà nel gestire il proprio parco clienti e nello stesso tempo difficoltà, specialmente nelle piccole e medie imprese, nel poter avere un potere di spesa sufficiente per acquistare la tecnologia, abbiamo pensato di avvicinarci ancora di più al mondo e al business, traducendo quello che era una vendita in una sola soluzione oppure in una modalità cloud, ma con un canone fisso a mese, con una metodologia pay per use. Ecco, quello che avete fatto è stato quello di mettere in piedi una esigenza delle imprese, un cambiamento, un new normal, per cui le imprese devono dialogare, devono continuare a dialogare con i propri consumatori, e avete anche dato, come dire, una forma perché tutto questo avvenisse nel modo migliore, per dare maggiore buonsenso, insomma, al contatto tra cliente e azienda. L'authority ha ovviamente cambiato un po' le regole del gioco, imponendo quello che noi troviamo una regola assolutamente corretta: l'emissione di chiamate cosiddette mute deve essere assolutamente evitata, quindi il cliente dall'altra parte deve sempre poter parlare entro un operatore umano da 3 secondi, entro 3 secondi da quando riceve la chiamata da un contact center. Quello che abbiamo pensato è di coinvolgerlo anche su altri canali. Sempre di più si parla di chat, sempre di più si parla ovviamente di gestione dei vecchi SMS che sono ancora di mercato rispetto ai canali social, per permettere di essere contattato o contattare le aziende nel miglior modo possibile. Questo pensiamo che debba essere etico. Quello che diciamo in azienda è che non è la tecnologia ad essere padrona del cliente, ma il contrario. La tecnologia deve essere schiava, deve abilitare quelle che sono le metodologie più semplici di contatto. Certo, perché comunque, diciamo, quelle chiamate improvvise possono anche produrre l'effetto contrario, ed è bello trovare, diciamo, un essere umano dall'altra parte con il quale dialogare e avere, come dire, un confronto. Chi vi ha aiutato a mettere in piedi, diciamo, la vostra iniziativa? Se avete reinvestito degli utili per crescere, per arrivare a più clienti, a più mercato, dal 94 a oggi? Noi abbiamo assolutamente investito i nostri capitali e gli utili per poter far crescere l'azienda e il prodotto, a discapito un po' di quello che poi sono i soci, come spesso succede, ma pensiamo che sia la strada giusta per poter far crescere l'azienda ed il prodotto. E ultimamente, l'anno scorso, abbiamo aderito anche al registro delle piccole e medie imprese, che ci permette di avere una serie di agevolazioni particolari anche in termini di raccolta di finanziamenti sul mercato. Quindi questi sono, diciamo, i vostri passi che avete fatto per riuscire, come dire, a portare la vostra idea sul mercato. Volevamo capire un po' il vostro modello di business, perché a questo punto sicuramente è sulle aziende, ma create anche dei meccanismi importanti anche tra il consumatore e l'azienda. Quanto cambiano questi meccanismi il rapporto e anche il fatturato delle aziende, e perché le aziende si rivolgono a voi? Il nostro modello di business prevede una metodologia, come anticipavo, pay per use, completamente senza nessun tipo di setup aggiuntivo, quindi nessun esborso economico all'atto della prima installazione, omni comprendendo il traffico telefonico. Infomaster è diventata carrier oramai da un anno, quindi nel caso si utilizzi il canale tradizionale telefonico, che è quello ancora più utilizzato dai consumatori, viene omni compreso per le aziende il traffico. Il nostro modello di business prevede di utilizzare una struttura commerciale adeguata sul territorio per raggiungere in maniera più capillare possibile i clienti, un canale di vendita in diretto che coinvolge due tipologie: le agenzie web e digitali, che hanno più contatti per far evolvere piccole e medie imprese, e un canale tradizionale che prevede l'utilizzo di distributori sul territorio nel mercato di Information and Communication Technology. Voi avete anche usato la tecnologia per fini umani. Cos'è questa Urban and Human Security? Abbiamo pensato che l'utilizzo dello strumento di contact center possa essere applicato anche ad altri tipi di utilizzo, che non la semplice ma per noi importantissima commercializzazione di prodotti o la ricezione di chiamate per i clienti. Si chiama AngelPad e prevede la possibilità, in questo caso, di strumentare un appartamento, di ricevere da sensori che vengono strumentati appunto all'interno dell'appartamento del cliente una serie di informazioni e di poi poter mettere comunque in contatto la persona che ha necessità di assistenza con un contact center che in questo caso lo segue passo passo per quelle che sono le necessità e i servizi. Quindi assistere soggetti fragili, comunque anche per la sicurezza delle città, la videosorveglianza attiva, sono comunque dei punti caldi e in ogni caso siete andati incontro a un mercato che richiede aiuto, no? Nella parte dell'assistenza ai soggetti fragili l'Italia dovrà per forza far passi da gigante, intorno all'Europa altri stati stanno già facendo questo, per poter permettere di assistere le persone in casa propria e non presso strutture centralizzate. General Computer Group, nata a Pavia nel 93 come fornitore indipendente di servizi di assistenza soprattutto in ambiente Unix, oggi si propone al mercato anche come fabbrica di servizi in outsourcing, in grado di offrire assistenza post garanzia a 360 gradi per ogni tipologia di sistema, server, backup, storage. General Computer Italia appartiene a un gruppo con un fatturato di circa 18 milioni di euro che si avvale di un team formato da 140 persone in Italia e 13 in Francia, 800 i clienti, 17.000 i sistemi supportati. Ecco l'ufficio IT in outsourcing e chiavi in mano, spiegato da Maurizio Barbieri, fondatore e amministratore delegato. La nostra prima idea anticrisi, quindi quella declinata nel breve, è la proposta al mercato di un portafoglio di servizi di manutenzione post garanzia che consentano di allungare la vita dei sistemi. Cioè voi costituite quell'ufficio IT che le aziende non si possono più permettere, quindi magari danno chiavi in mano tutta la propria gestione della sopravvivenza, della propria informatica a qualcuno di esterno. E voi avete però modulato l'offerta perché tante sono le imprese, tante sono le esigenze. Guardiamo come loro sono strutturati, cioè la struttura IT che hanno, e da lì partiamo per declinare dei servizi customizzati, un po' una sorta di sartorialità, no? Come se fosse un vestito fatto su misura. Faccio un esempio, non so, un'azienda di moda può avere i sistemi informatici che sono critici per 4 mesi all'anno, piuttosto che un'azienda vitivinicola. Noi abbiamo dei contratti di servizio, di manutenzione, di outsourcing che tengono in considerazione i loro processi. Al di là di queste parole c'è un'importante funzione che voi fate, cioè non si buttano i sistemi attuali, bisogna che voi vi adattiate un po' alla situazione che trovate. Il cambio tecnologico deve essere un cambio che deve procurare dei vantaggi per l'imprenditore, per l'azienda, e questi vantaggi devono essere misurati prima e si deve essere coscienti che questi vantaggi esistano. Quindi sicuramente la ricetta della nonna di cercare di buttare via il meno possibile, mia nonna non buttava via neanche la carta stagnola, vale anche per i sistemi informatici, quindi va sempre valutato la reale necessità di fare una sostituzione o di fare un'azione per portare dentro una nuova infrastruttura. Sicuramente il nostro approccio è un approccio che punta a senza frondoli, cioè quindi a utilizzare quello che realmente è necessario. La cosa importante quindi è far risparmiare al cliente, ma anche fargli cambiare mentalità, perché adesso il digitale è un mercato importantissimo e anche qui c'è un risparmio perché si raggiungono moltissimi clienti anche attraverso il web, quindi avete anche pensato a un'altra soluzione anticrisi per le aziende. Abbiamo anche un'offerta evolutiva che consente all'azienda cliente di acquisire information technology a canone, come se fosse un servizio, e quindi di poter esternalizzare questo tipo di servizio, di necessità, rendendola sempre di più a supporto del business dell'azienda. L'IT, l'information technology, negli anni ha peccato un po' di autoreferenzialità dal mio punto di vista, quindi non è più stata percepita come doveva essere la sua funzione iniziale, ovvero un supporto al business dell'azienda, ma spesso gli imprenditori la percepiscono come un costo, perché non la capiscono bene, no? Se un imprenditore costruisce mobili, fa business, fa il suo business, i suoi affari costruendo mobili, se un operatore in un altro settore ha questo tipo di mission. Quindi si deve adattare, no? In ogni caso. Ecco, voi avete anche un modello di business che prevede che cosa? E noi fino ad oggi ci siamo sempre autofinanziati. Da questo punto di vista è un'azienda che in questi 23 anni ha sempre vissuto di autofinanziamento da parte dei soci della società, è una società per azioni, diciamo abbiamo grandi sogni ma con i piedi per terra, quindi abbiamo sempre fatto le mosse che ci consentono e ci hanno consentito di poter sopravvivere per questi anni e anche di cambiare pelle, perché poi anche noi a nostra volta operiamo un cambio di pelle continuo. Queste e altre storie, idee e curiosità d'impresa, anche in anteprima potete trovarle sulla pagina programma di Voci d'Impresa sul sito di Radio 24, www.radio24.it, nella sezione Extra. Se volete scriverci le vostre voci di piccole imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.